X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Marcella Panucci, 44 anni, calabrese di Vibo Valentia, sposata con due figli, laurea con lode in diritto commerciale. La prima donna direttore generale di Confindustria, di lei dicono è la manager della porta accanto. In Confindustria dal 95 si occupa di impresa e finanza, esperta di semplificazione amministrativa, scala tutta la struttura finché Squinzi la sceglie come direttore generale. Il presidente Renzi la voleva a tutti i costi nel suo governo. Lei ha detto: no, ho un impegno con Squinzi. Davvero ha detto no a Renzi? Ma cominciamo subito così. Sì, è vero. Ma ha avuto paura? No. Lui l'ha presa bene o male? Ah, questo non lo so, bisogna chiederlo a lui. Non ne avete parlato? No. Resta il fatto che Renzi poco dopo ha snobbato l'assemblea di Confindustria, colpa del suo no al governo. Vabbè, dai, non esageriamo. Mi sembra, insomma, mi dà troppa importanza. Pensa che quest'anno verrà? Ah, non lo so, bisogna chiederglielo. Ma è pentita di quel no? No, non sono pentita. La sua mission in Confindustria è quella di renderla snella. Mission impossible, pensano tutti. Non c'è niente di impossibile. Si può fare anche sì, quello, si può dice. Fare, si può fare, già abbiamo cominciato. Senta, dottoressa Panucci, tutti vi vivono però come un pachiderma. Nella società liquida, strutture così servono ancora? Ma strutture così servono sempre, ovviamente dopo lo snellimento che noi già abbiamo avviato, però i corpi intermedi sono un elemento essenziale della democrazia, anzi quando non c'erano si è fatto molto per crearli. Senta, voi siete speculari in qualche modo alla CGIL e lei ha una grande sintonia con la Camusso, così si dice. Su cosa è basata questa sintonia? Sulla musica rock. Ah sì, eh? Il punto d'incontro è quello? Per ora direi di sì. Musica rock degli anni 70? Eh? Musica rock degli anni 70, e chi sì. preferiva lei? Io ero molto giovane, ma preferivo i Rolling Stones. Ah sì? Senta, ma crede all'OPA di Landini sulla CGIL? Ma io credo che OPA e Landini siano due concetti incompatibili. Uno è mercato, l'altro no. Senta, dottoressa Panucci, restiamo al lavoro. Il Job Act è legge. Le assunzioni iniziano a crescere. C'è un rapporto diretto fra queste due cose? Ma se per Job Act intendiamo l'intero pacchetto di contribuzione, quindi legge di stabilità e riforma del mercato del lavoro, sicuramente il contributo c'è ed è importante. Quindi Renzi ha ragione quando dice sì che c'è un rapporto fra le due cose? Beh, sicuramente sì, sicuramente sì. Senta, la previsione di crescita, che vanno verso più 0,7, 0,8, vogliono dire crescita o sussulto? Ma noi speriamo che non sia più un sussulto, ma sia l'inizio di una crescita. Lei però un anno fa diceva che se c'è uno zero davanti non c'è ripresa. Lo pensa sempre? Se sì. c'è uno zero davanti è un prefisso, la ripresa richiede numeri più alti, però sì, lo penso sempre. Senta, dal suo osservatorio questa ripresa la vede arrivare o non ancora? Sì, la vedo arrivare, i segnali ci sono e questa volta penso che siano segnali che se consolidati potranno dare una danno ripresa. Danno origine a un trend? Sì, sì. Senta, dottoressa Panucci, restiamo ai contratti a tutte le crescenti introdotte da Renzi. Senta cosa ci ha detto Andrea Guerra, che è consulente di Palazzo Chigi per le politiche economiche. Penso che dentro al Jobs Act ci siano tante cose buone. Credo che manchi ancora qualcosa di fondamentale, che è la protezione del lavoratore nel lungo periodo. Sul lavoro la linea Marchione sulle relazioni industriali va bene secondo lei allora? Non è la mia. Ecco, le tutele crescenti, dice Marchione, sono ancora molto fragili, d'accordo? Ma io penso che abbiamo iniziato un percorso importante di riforma e rinnovamento del mercato del lavoro. Le tutele nel lungo periodo verranno dalla seconda fase della riforma, che è quella che punterà a rinnovare le politiche attive. Quindi la tutela viene soltanto se c'è un mercato del lavoro dinamico. Se c'è sviluppo, insomma. Se c'è sviluppo, è chiaro. Senta, abbiamo sentito però che a Guerra il modello di relazione industriale introdotto a Marchione non piace. A lei piace? A me piace il modello di relazioni industriali su cui sta lavorando Confindustria, che è un modello basato sulle regole, sul confronto. Parlavamo di Marchione. Le piace? Marchione ha iniziato un processo molto importante di modernizzazione in Italia, quindi sì. Senta, il welfare aziendale, che è stato per troppo tempo sottovalutato, è una strada moderna? È una strada essenziale, centrale. Io penso che sarà una componente essenziale nelle nuove relazioni industriali, soprattutto perché il sistema pubblico non può più permettersi la spesa che ha sostenuto finora. Quindi è necessario che integrino i privati. Senta, dottoressa Panucci, parliamo di anticorruzione. Voi siete favorevoli alla legge in discussione oppure no? Ma noi siamo favorevoli ad un rafforzamento delle misure anticorruzione. Nella legge in discussione ci sono alcune cose positive e altre meno, quindi... Ma il falso in bilancio è o no una discriminante della legge? Ma il falso in bilancio è una componente essenziale delle politiche anticorruzione, però va costruito bene in maniera equilibrata. Deve in che essere... senso? Nel senso che bisogna fare attenzione, i bilanci sono fatti di valutazione, attenzione a che cosa si penalizza. So, però falso in bilancio sì, come valore. Sicuramente le false comunicazioni sociali vanno sanzionate, bisogna fare attenzione perché non tutto è falso. Senta, dottoressa Panucci, la Confindustria ha avuto problemi seri in Sicilia in temi di antimafia. Un campione del settore come Montante si è trovato accusato del contrario. A che punto è la questione? Guardi, minori, qui i giornali non sono tribunali, quindi non ci sono state condanne. Lì ancora al momento non mi pare ci sia niente, quindi direi aspettiamo. Ma sull'antimafia avete regole sufficienti all'interno dell'organizzazione? Noi abbiamo le regole durissime all'interno dell'organizzazione che prevedono che quando ci sono dei passaggi formali da parte dei tribunali sia prevista la sospensione e l'espulsione delle aziende. Sfido chiunque. Senta, a proposito di infiltrazioni, voi siete molto esposti sull'Expo perché ci avete creduto fin dall'inizio e avete, come dire, sostenuto l'operazione. Ma sarà pronta questa Expo? Ci sono degli elementi di preoccupazione, questo senza ombra di dubbio, però io confido nel genio italico e nella capacità di risolvere i problemi anche al photo finish. Ma il fatto che il Presidente della Repubblica non sia presente all'apertura cosa significa? Significa che bisogna chiederlo a lui. Dopo 2 anni da direttore generale, ha la sensazione di riuscire, come diceva all'inizio, come voleva fare all'inizio, a trasformare i burocrati in classe dirigente del futuro? Sì, io ne sono convinta, guardi, lo sto facendo con determinazione e i risultati si vedono. E come? Ma noi abbiamo, guardi, Confindustria... Mi faccia un esempio per cui mi convince. Ma guardi, noi abbiamo cominciato, ovviamente stiamo puntando sui giovani, lo so che lo dicono tutti, ma noi lo facciamo per davvero. È normale. Quindi, certo, è normale, sì. Quindi abbiamo cominciato a fare dei corsi manageriali per i giovani, fare dei corsi sulle competenze tecniche, molti giovani li abbiamo mandati a studiare, a lavorare all'estero, ritornano in Confindustria con competenze e visioni diverse. È un esempio da farmi, uno proprio di fiore all'occhiello. Ma guardi, più di uno in realtà. Abbiamo un ragazzo che ha lavorato col consigliere diplomatico del precedente primo ministro e adesso è rientrato da noi, una ragazza che è andata a lavorare in rappresentanza all'Unione Europea per il semestre di presidenza. Senta, ma finora quale considera allora il suo successo numero uno come direttore generale di Confindustria? Io proprio questo, guardi, aver puntato sulle bravissime risorse che abbiamo in Confindustria, i risultati si vedono. Senta, ma è un mestiere che si può fare solo a termine, quello suo? Tutti i mestieri si devono fare solo a termine, non solo questo. E la prossima tappa quale potrebbe essere? Dovrei avere la palla di vetro, non lo so, guardi, ma io ho imparato che nella vita bisogna... Non bisogna mai programmare troppo, le cose succedono all'improvviso e bisogna coglierle quando succedono. Certo, non ha voluto far ministro, quindi... sono scelte. Senta, dottoressa Panucci, la spina dorsale del sistema industriale italiano sono le piccole e medie imprese, non c'è dubbio, finanziate spesso dalle banche del territorio. La riforma delle banche popolari è un passo necessario o è un rischio? No, è un passo necessario, assolutamente. Sì, sono convinta. Senta invece cosa dice il professor Alessandrini, che è contrario. In Germania è andato in un altro modo, la Merkel le ha salvate. Ecco, è proprio questo il problema. Questo spiega che il decreto legge Renzi non è né prioritario né estremamente utile. In Germania le banche del territorio sono state salvate con soldi pubblici, 250 miliardi. Dinanzi a una crisi sistemica sono necessari interventi sistemici, altrove, non solo in Germania, hanno salvato le banche per ridare credito all'economia. Ecco, però appunto, Da noi chiediamo all'economia di salvare le banche con nuovi apporti di capitale privato, che però in Italia scarseggia. Ha torto? Sì, ad averceli 250 miliardi da mettere nelle banche. A quel punto direi mettiamoli nell'economia reale. Però la riforma di Renzi riguarda una decina di banche, 10 banche popolari. Le piccole rimangono così come sono. Ma perché la Merkel le ha difese però tutte, noi no? La Merkel le ha difese perché aveva anche la capacità economica di difenderle. Noi non è che le difendiamo o non le difendiamo. Vanno capitalizzate le banche per poter dare credito. La Merkel l'ha fatto con soldi pubblici. Noi soldi pubblici non li abbiamo, dobbiamo attingere a risorse private. E per farlo bisogna dare delle garanzie agli investitori. Il decreto Renzi fa questo. Senta, il presidente Squinzi continua a dire che le aziende non riescono a rifinanziare i loro debiti per i vincoli che sono stati messi alle banche italiane. Cioè? Beh, le banche italiane e le banche europee in generale, perché Basilea III è evidente che ha posto dei vincoli fortissimi in termini di capitalizzazione, questo ovviamente si ripercuote sulla concessione. Insomma, questa economia reale non arriva mai niente. Non arriva mai niente, no, però sicuramente le difficoltà di accesso al credito ci sono state e sono state fortissime, sono state una delle principali cause della crisi. Senta, dottoressa Bonucci, ma il governo Renzi aveva promesso lo sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione proprio per aiutare l'economia reale. A che punto siamo? No, anche perché è un dovere, ma a che punto siamo? Hanno pagato 36 miliardi di euro su il dato complessivo non ce l'ha nessuno, diciamo 80-90 miliardi di euro. Un terzo, però il problema, allora, quello che dovevano fare l'hanno fatto secondo la legge. Il problema è che la legge aveva dei limiti, quindi i debiti fuori bilancio, i debiti delle regioni con piani di rientro erano fuori da questi esercizi, i debiti delle società partecipate degli enti pubblici. Mi aspettavo di più dalla legge, ma questo l'abbiamo detto a suo tempo. Adesso, se si volesse fare un'operazione seria, bisognerebbe cominciare ad aggredire quelle componenti che non sono state aggredite. Senta, un anno fa, proprio qui, a MIX24, il presidente Squinzi aveva detto che la bisaccia del governo Letta era vuota. E Letta è andato a casa. Lei che voto dà oggi la bisaccia di Renzi? Ma i voti si danno in genere alla fine di un percorso, quindi aspettiamo a darglielo. Però direi che lui ha fatto delle cose molto importanti. Altre cose molto molto importanti le ha avviate, penso alla riforma costituzionale, noi lo esortiamo ad andare avanti con determinazione. Ecco, io glielo chiedo però perché Squinzi continua a dire qualcosa è stato fatto, tanto è stato annunciato. Insomma, sono due bisacce diverse, la sua e quella di Squinzi, no? No, stiamo dicendo la stessa cosa, ha fatto delle cose importanti, penso alla riforma del mercato del lavoro, il taglio del cuneo fiscale, sono battaglie che abbiamo fatto per anni e finalmente vedono la luce. Tante altre vanno fatte, però su questo lo ha detto anche Draghi, attenzione, noi siamo in uno stato di grazia per condizioni esterne, ma se non facciamo le riforme nello stato di grazia, insomma, finirà, ecco. Senta, su Repubblica ieri Eugenio Scalfari diceva bisogna aiutare Renzi a difendersi da se stesso, lo pensa anche lei? Ma io non penso che bisogna aiutare Renzi a difendersi da se stesso. Si difende da solo benissimo. Si difende da solo molto molto bene. Senta, ma qual è secondo lei il principale difetto di Renzi? Ma guardi, Renzi ha molto coraggio e molta energia, decide sicuramente, certo forse in alcuni casi dovrebbe ascoltare di più tutti. E la sua qualità principale? È proprio quella il coraggio di decidere, sì, che molti non hanno avuto. Senta, Martinetti, che è il fondatore di Grom, la fabbrica di gelati, dice che è più facile aprire 3 gelaterie a Tokyo che una a Roma, dove ci sono voluti 4 anni. Insomma, se la semplificazione è il problema del paese, da dove si parte perché sia davvero un problema che si affronta? Ah, guardi, bisognerebbe fare meno leggi e organizzare di più e meglio l'amministrazione. La vera carenza è proprio organizzativa. Ma la riforma della pubblica amministrazione del ministro Madia va nella direzione giusta o no, secondo lei? Sì, va nella direzione giusta, è una riforma perché? Molto buona, perché affronta alcuni aspetti legali e giuridici, ma soprattutto molti aspetti organizzativi, ed è quello il nodo essenziale. Ma cos'è la cosa più efficace, secondo lei, in questo disegno? Ma guardi, a parte ci sono appunto la revisione di alcuni strumenti che finora hanno funzionato poco e male, tipo la conferenza dei servizi, autotutela, adesso gli ascoltatori magari si annoieranno a sentirla, però sono degli strumenti essenziali per avere il consenso proprio sulle autorizzazioni per avviare nuove attività. E poi c'è un tema di dirigenza pubblica, di merito, di valutazione delle performance. Okay, la riforma Madia lo affronta. Ecco, questo, anche con coraggio. Sì. Intanto però le grandi aziende come la Fiat, la Pirelli se ne sono andate. È il segno di un paese in crisi oppure è la bellezza della globalizzazione? Ma andate adesso mi sembra eccessivo. Arrivano capitali soprattutto per quel che riguarda Pirelli. No, non è il segno di un paese in crisi. Io penso che sia la globalizzazione. Il mondo è uno e i capitali girano e vanno nei paesi e nelle imprese che danno maggiori opportunità. Non ci dimentichiamo che molti capitali italiani vanno ad acquisire imprese straniere. Certo. E questo è anche un gran merito. Se parliamo di internazionalizzazione, vale per tutti, o sì o no. Ecco, dottoressa Panucci, a proposito di grandi imprese in crisi, parliamo dell'Ilva. La soluzione pubblico-privata pensata dal governo, lei la condivide? Guardi, adesso mi pare ci siano molte alternative, nel senso che bisogna andare per forza in quella direzione. Io non condividevo il fatto che si sia andati in amministrazione straordinaria. Era un'impresa che produceva reddito e che quindi doveva continuare a essere gestita da privati. Ma quindi la prospettiva di un intervento dello Stato nel capitale fa venire l'orticaria in qualche modo? Oggi non mi pare abbiamo alternative, no, dipende. L'importante è che però ci sia un progetto e soprattutto che sia stabilita la data di uscita dello Stato dal capitale. Senta, e quindi la restituzione privata. Chi ha seguito per il governo il dossier Ilva, cioè Andrea Guerra? L'età che viviamo è un'età di paradossi, per cui non è più la O ma è la E, per cui ci sono dei momenti in cui è necessario prendersi la responsabilità. Cioè pubblico e privato può essere una strada io nuova? Io non ho dubbio. L'Ilva sicuramente sono 15 anni di scempi. Il salvataggio dell'Ilva dal mio punto di vista è un simbolo straordinario. Se Ilva è salvo o no lo sappiamo per l'estate. Quindi ci siamo quasi quasi il punto d'arrivo, dice. Lei è d'accordo? Sicuramente adesso guardi, dire che l'Ilva viene da 15 anni di scempi lo dirà la magistratura quando avrà adottato una sentenza. Ad oggi non c'è neanche un rinvio a giudizio, lo vedremo. Senta, però, io sono d'accordo perché oggi non ci sono alternative purtroppo. Senta, dottoressa Panucci, però è stata l'economia mista, pubblico e privato, ad aver fatto entrare l'Italia nel gruppo dei paesi più ricchi del mondo. Questo è fuori discussione. Allora, ma nessuno ha dei pregiudizi, diciamo, nessuno ha pregiudizi di questo tipo. Sì, è vero, è stata l'economia mista a rafforzare la presenza italiana nel mondo, però tutte le cose hanno un tempo. Certo, però le privatizzazioni sono state fatte male, hanno portato il paese a essere in qualche modo disarmato nel momento della globalizzazione. Erano sbagliate fatte così? Guardi, è facile dirlo dopo 20 anni. In quel momento erano un passaggio assolutamente necessario per varie ragioni, non ce lo dimentichiamo. No, certo, ma fate così? Fatte così, alcune sono allora, state fatte bene. Allora, mettiamola così, cos'è che non ha meno funzionato? Forse all'epoca pensavamo che ci fosse più mercato di quello che in realtà c'era. Ecco. Ma l'intervento della magistratura a proposito dell'Ilva è stata positiva o no per risolvere il problema, secondo lei? No. Al momento il problema mi pare sia stato risolto, quindi ne traiamo le conclusioni. Senta, lei ha detto però che è stato un esproprio senza indennizzo, cioè? L'amministrazione straordinaria spossessa la proprietà e non concede indennizi. È ovvio che uno strumento, quando c'è una crisi, la crisi dell'Ilva è stata indotta dagli interventi. Però la salute dei lavoratori mi pare che fosse stata messa a rischio molto. La salute dei lavoratori e la salute dei cittadini è assolutamente fondamentale. Era stata quindi messa a rischio, delle buone ragioni. Ripeto, manca una sentenza. Quindi io ho molta fiducia nei tribunali, ho molta fiducia nelle sentenze dei tribunali. Quando ci sarà una sentenza verificheremo di chi saranno le colpe e chi avrà colpa pagherà. Senta, dottoressa Panucci, le imprese italiane che hanno delocalizzato cominciano a tornare. È un buon segno o fa parte di quel discorso che faceva prima, la globalizzazione? Tutto si muove tutto, nel bene e nel male, quando vanno via e quando tornano. Ma guardi, è un segnale positivo, parliamo ancora di casi limitati ovviamente, ma speriamo che sia una partenza per un rientro delle imprese. Sì, è un dato di fatto della globalizzazione, però io le dico anche una cosa, che l'Italia è un paese molto competitivo da un punto di vista delle sue imprese, delle capacità, delle risorse umane, delle persone che lavorano, e chi torna in Italia torna non per ragioni di costi, perché noi da un punto di vista di costi non lo siamo, torna perché siamo bravi a produrre, abbiamo ottime imprese, abbiamo ottimi lavoratori. Ma perché andate via allora? Erano andati via in alcuni momenti, probabilmente c'erano due fattori. Uno, probabilmente sono state fatte delle valutazioni che poi evidentemente non erano quelle corrette. Il secondo è che il contesto era diverso. Peraltro in alcune economie i costi erano ancora più bassi, adesso stanno cominciando a salire. Ci sono dei fattori positivi che stiamo vedendo, dal cambio al calo del prezzo del petrolio, quindi dell'energia, che inducono le imprese a tornare. Quindi ci sono molti molte fattori valutazioni che si intrecciano. Non ultimo però il fatto che appunto l'Italia ha veramente grande capacità produttiva. Senta, pensa che nel 2015 sparirà questo zero davanti al più della crescita? Più che penso, lo spero. Lo spero e basta. Lo spero. No? Diciamo che il traguardo dell'uno non è lontano, però guardi che all'uno non arriviamo se non facciamo le cose che dobbiamo fare, cioè le riforme. Quindi siamo sempre a Draghi. Siamo sempre a Draghi. Cioè se noi ci affidiamo sul QI fondamentale, sul calo del prezzo del petrolio, sul deprezzamento dell'euro, manterremo esterne, lo zero davanti alla virgola. Se invece faremo le riforme, lo zero lo elimineremo. Senti, Senta, dottoressa Panucci, ieri la Ferrari, la abbiamo sentita dal giornale radio e lo sappiamo, ha battuto la Mercedes. Lo sport dopo ci dà tanto sempre tempo, grandi soddisfazioni. Grande soddisfazione anche Rossi. È un bel augurio per il rapporto con la Germania della Merkel, che in Europa è sempre più difficile, oppure no? Bell'augurio, sì, sì, un bel augurio. Ricordo che c'era anche Germania-Italia 4-3, no? Certo. No, cos'era il contrario, certo, mi ricordo. Certo. La mia cultura. 4-3, detto bene. Ma lei pensa, che lei pensa che la Grecia resterà nell'euro? Guardi, io lo spero proprio, sì. Sì, sarebbe veramente un bruttissimo segnale se la Grecia uscisse. Senta, dottoressa Panucci, le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto, mio padre mi ha insegnato che non prendersi troppo sul serio è il vero salvavita. Ecco, lei come ci riesce a non prendersi troppo sul serio? Solo sapendo ridere di me. Mix 24. Il pianeta Venere trasmetteva un concerto di Brahms, mentre Conte Dracula sniffava i sali. Guarda qua, la tintoria mi ha rovinato il frac. Raccontami una storia che riaddormentarmi fa. Il pianeta tutti spiritosi oggi nella metropolitana. No, non era metropolitana, Giovanni. Ah. Buongiorno, no, io arrivavo da Torino, un viaggio in macchina che è cominciato nella notte e si è concluso all'alba, facendo sosta nelle stazioni di servizio, dove in ogni bar, non ci crederete, c'era una clientela particolare. In una c'era Zeus, in doppio petto, ed era pronto per un'uscita delle sue. Cercava Afrodite, ma lei, la dea, dalle divine forme, per non dire dei suoi divini passi, faceva sentire il mare da un autogrill all'altro, e gli dei, qualcuno ce n'era per esempio uno in un duetto Mercedes, davano consigli agli automobilisti dal cuore arrugginito, e soprattutto Hermes, che era bravo a discorrere con le donne, scoccodrillando le sue 42 Lacoste e sintonizzando tutti sul pianeta Venere. Sergio Caputo. Ah. Mario, meglio della metropolitana sto viaggio, non è, mi sembra. Beh, Sergio Caputo. Ti allegro. C'era una meravigliosa Torino. Ah, che bello Torino, ciao Torino. Mi piace Torino. Allora, bolla! Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo. Povero là. È andato male il weekend, Mario. Povero Lan, senti che gli tocca fare. Vabbè, ragazzi, ti si è votato, no? Secondo turno ha vinto l'UMP di Sarkozy. La Le Pen conferma la sua forza, ma ancora. Però non ha preso neanche deve, un seggio. Sì, il sistema elettorale francese in questo è spietato. È spietato, micidiale ed efficace. E naturalmente, però, insomma, il dato politico è che è una sfida tra destre. Questo è un dato enorme. Sai, la cosa. Dice tante cose anche per l'Italia. Sì, dice tante cose anche per l'Italia. Dice che l'Europa sta andando verso sistemi tripartiti, sistemi politici non elettorali, ovviamente. Per esempio, sta accadendo la stessa cosa nel Regno Unito, che scioglie il Parlamento oggi e va a votare il 7 maggio, quindi ci sarà una campagna elettorale di un mese molto interessante, appunto, nell'isola d'Inghilterra. E segnalo che Mattarella va oggi a Parigi in visita ufficiale, cena con Hollande, proverà a consolarlo nel peggior giorno del governo francese. Non è male, allora solo una schitarrata per celebrare tutto. T'ho fregato, Minori. Bella però. Bellissima, senti. Sentiamo Sara, che cosa ci racconta questo lunedì mattina. È stata lunga la corsa delle donne in medicina. Una volta non c'erano neanche gli spogliatoi femminili negli ospedali. E oggi il nuovo presidente è Roberta Kersevani, la prima donna alla guida dell'Ordine dei Medici in 105 anni. Ed è sicuramente un caso, ragazzi, che non, insomma, che in 150 anni c'è stata solo oggi una donna alla guida dell'Ordine, non c'era nessuna resistenza al genere femminile, sicuro. Comunque, ormai il 70% degli iscritti a medicina sono studentesse e in Italia il 65% dei medici sotto i 35 anni sono donne, più che in Inghilterra, più che in Francia. Alla dottoressa Kersevani toccherà il compito di armonizzare il divario di genere che c'è tra i primari e i direttori sanitari. Le donne sono ancora una rarità ai vertici ed è ora di riscrivere la storia. Diciamoglielo alla Panucci. Salamino, Pietrangelo. A Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale. Pieni gli alberghi a Tunisi. Allora, in marcia per il turismo contro il terrorismo. A Tunisi, tra le facce accorse alla manifestazione di solidarietà al popolo tunisino, c'era anche quella di Matteo Renzi. L'industria del turismo è la voce più importante dell'economia in Maghreb, così in tutto il Nord Africa, come lo era in Siria e in Egitto. Le navi da crociera intanto hanno cancellato la tappa a Tunisi, ma quella del turismo è una questione che non riguarda solo la parte araba del Mediterraneo. Se si pensa, per esempio, che Marzamemi è più a sud di Tunisi, e come per le crociere, le ferrovie dello Stato adesso hanno accarezzato, anzi no, stanno cancellando i treni, i vagoni letto che dalla Sicilia portano al continente e viceversa. Per non dire poi dei voli, perché insomma per un cittadino italiano è più facile andare in vacanza alle Canarie piuttosto che in Sicilia. Dario Franceschini, il ministro dei beni culturali e del turismo, ha detto una cosa ripresa oggi sul quotidiano La Sicilia da Ottavio Cappellani, e dice questo: la Sicilia per me è una sofferenza e un imbarazzo. Il mio ministero e il mio governo non ha nessuna competenza. La proprietà di tutti i beni culturali è della regione e ricevo proteste per cose che non posso fare. Fa molta rabbia, dice il ministro, pensare che lì si unisce la bellezza del mare, la bellezza del paesaggio, un patrimonio incredibile, e vedere quel numero limitato di turisti fa rabbia. Siamo peggio della Tunisia, dove in Tunisia c'è il terrorismo ad allontanare la gente. Qui ad allontanare la gente ci pensano le ferrovie dello Stato e gli aerei. E poi l'inettitudine della regione siciliana. Ottavio Cappellani si fa una domanda: ma è così ineluttabile? Siano sempre pieni gli alberghi a Tunisi come a Palermo. Il numero verde 349-238-6666 se volete raccontarci qualche disgrazia dei viaggi in Sicilia. Siamo pronti ad ascoltarvi. Mario, una bolla. C'è. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Questo è l'ultimo pezzo di Cesare Cremonini. Molto felice, devo dire. Buon viaggio, uno lo ascolta e si mette di buon umore. E vediamo come sarà il nostro umore quando tra 20 minuti circa l'Istat diffonderà l'indice di fiducia dei consumatori e delle famiglie. Vediamo un po' che dice. Ci sono alcuni segnali positivi per l'economia italiana. Certo, parlare di una ripresa robusta, come è anche venuto fuori dalla chiacchierata che hai fatto prima, ci vuole ancora un po'. Nessuno sa oggi fissare quanto sarà il PIL in realtà quest'anno. C'è chi dice più 0,4, c'è chi ha messo l'asticella addirittura sopra l'1. Il governo nel DEF metterà un più 0,7. Poi alla fine, secondo me, succederà che sbaglieranno tutti. Segnalo che tra gli appuntamenti imperdibili della giornata c'è una direzione del PD che si occupa della legge elettorale alle 16. Imperdibile. Insomma, dice Gigi Pietrangelo, Gigi dice: se spostassimo la capitale a Palermo Ha capito il senso dell'intervento di Palermo fu del nostro, ministro dei beni culturali. Non di questo regno, però. Non di, un regno beato. Mix 24. Mario. E io ci sono. Una bolla. Un po' di musica ancora. Piace David Bowie, sì, molto. Heroes, bellissimo. Ho anche intervistato. Hai visto? Io devo stare attento quando parlo con minori, perché dico ti piace, e poi lui si muove, poi sotto dice l'ho anche intervistato. Oh, vabbè, cioè, vabbè, sono vecchio, fanno ma tante che vecchio cose. Sei giovanissimo. Vai. Beh, insomma, Heroes, io voglio fare un po' di, come dire, controstoria, o comunque andare un po' controvento, perché il tempo è sempre galantuomo, a me hanno insegnato così, alla fine tutti i nodi tornano e si sciolgono e vengono fuori. Ricordate cosa successe un anno fa, perché di questi tempi un anno fa, sì, come dire, la Crimea tornava a casa Russia. Vi ricordate qual era il clima e i commenti? Cosa si diceva? Che era un'annessione, che sarebbe scoppiata la rivoluzione, insomma, che sarebbe venuto giù di tutto. Bene, un anno dopo in Crimea è successo qualcosa? No. Niente. No, i russi spendono 2 miliardi circa per mantenerla, per integrarla, diciamo, nel loro sistema, che ha molte difficoltà in questo momento. E però la voce del mainstream di allora oggi appare, come dire, un po' ridicola, no? Gigi il ritorno a casa. Gigi si è preoccupato quando abbiamo detto spostassimo la capitale a Palermo, che ha risposto, dice, non prendetela come una provocazione. Spostare la capitale a Palermo potrebbe essere un segno di presenza forte anche contro la mafia e mettere la capitale al centro del futuro mondo. Beh, ci dice, crede. Gigi, capito? Ci crede. Vabbè, Salamino. Aperta con un anno di anticipo la gara alla poltrona di sindaco di Milano. Giuliano Pisapia ha annunciato che non si candiderà. Il centrosinistra, archiviata la stagione arancione, fa le bolle piritolle con i soliti avanzi di salotto. Il centrodestra invece sta accarezzando un grande ritorno. Un grande ritorno dunque. Non Gabriele Albertini, non il Magnifico, e sottolineo Magnifico, non fosse altro per la stagione tutta da bere, quella di Paolo Pillitteri. Il grande ritorno è tutto da indovinare. Cicci, cicci, ricoprimi di baci. Cicci, cicci, assaggi e poi mi baci. Allora, ovviamente non si tratta di Umberto Smaila, no. E comunque quello che ritorna, che non se n'è mai andato, quello che ritorna, il grande ritorno non è quello di un sindaco, bensì di un grande protagonista, perché Milano è pur sempre la città più importante d'Italia, è la vera capitale, è lì in quel vecchio palco, in un vecchio palco della Scala, nel gennaio del 93. Spettacolo di gala. Non voglio dire che sia del 93 lui, nel senso del 1893. Non voglio dire che sia proprio da collocare al vecchio palco, però solo lui ci può arrivare. Chi è? Insomma, la risposta in un'altra canzone. Si candida sindaco di Milano, forse, forse, forse che sì, forse che no, è lui. Sì. Quello gli manca, però, Però non l'ha mai fatto. Come si suol dire, un brodino sempre si può prendere. E adesso Alessandra Fiori con il suo lunedì libro. Ho 77 anni e per 72 anni e 111 giorni ho gettato nel cesso la mia vita. Poi ho capito che era giunto il momento di usare la considerazione guadagnata sul campo per iniziare a godermela sul serio. Lucidissimo nel suo cinismo, Cesare Annunziata, protagonista di La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone, È un vecchio che odia i vecchi, determinato a non farsi turbare da niente e da nessuno nei suoi ultimi anni. Ma la felicità capita o si conquista? E il cinismo è un'arma affilata o una mediocre difesa? Vedovo, una figlia avvocato, nevrotica e infelice, e un figlio gallerista, gay, senza il coraggio di confessarglielo. Cesare vive a Napoli, in un tranquillo condominio del Vomero. L'arrivo di una giovane coppia cambia tutto. Lo sguardo malinconico della donna nasconde qualcosa di difficile da ignorare, persino per l'egoismo di Cesare. Ironico di natura, cinico per sopravvivenza, a Cesare basterà il trasformismo di cui ha fatto un vanto per evitare i conti con il passato? I fallimenti, le promesse disattese, le delusioni date e quelle ricevute seguono il corso dei sogni che si fanno rimpianti. Ma intanto, quasi fuori tempo massimo, con il disincanto riaffiora inesorabile la tentazione di illudersi ancora. La tentazione di essere felici, di Lorenzo Marone, pubblicato da Longanesi. Mario, c'è ancora una bollicina? Sì, c'ho un aggiornamento in diretta. Around the world, ovviamente. Varoufakis, c'hai presente il ministro, certo, dell'economia, finanze, no? Greco, quello che si mette tutte le camicie un po' sgargiantine, diciamo, pan di zucchero e via discorrendo. Vabbè, in contrasto ai burocrati di Bruxelles. Ha scritto un articolo sul quotidiano tedesco Handelsblatt, tu sai che già pubblicarlo in Germania Varoufakis non è proprio semplicissimo di questi tempi, e dice che insomma bisogna trovare un accordo tra Grecia e Germania perché gli scambi d'accuse danneggiano l'Europa. E insomma, dateci sti sordi, la traduzione è questa. Però le riforme sono chiave, sono sparite dalla proposta della Grecia per ora. Guardavo adesso un altro. Vabbè, sarà un match al primo round, questo, non all'ultimo. Sì. Non credo che siamo arrivati ancora all'ultimo. No, round. Intanto, Marina, oggi che cosa raccontiamo con la storia dopo il giornale radio? È la storia di Carmela Iuculano, moglie di un capo mafia che decide ad un certo punto della sua vita di pentirsi e inizia così a svelare piano piano i segreti di Cosa Nostra. È un'inchiesta sul ruolo delle donne nella mafia realizzata da Marina Liuzzi e Raffaella Cortese. Bene. Ascolteremo questa storia naturalmente dopo il giornale radio, ma prima della pubblicità, L'uomo più furbo di Max Gazzè. Può avere tre o quattro donne al secondo, quella sera torna a casa da solo, scaccia gli sguardi come scaccia le zanzare.